recente ad un'arte degli Alpini a Milano e nelle varie manifestazioni che hanno fatto c'è stata anche un concerto di un coro qui nella chiesa qui vicino di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso. E mi hanno raccontato che appunto, come è normale, all'inizio della prima di questa manifestazione, e hanno raccontato un po' la storia della chiesa, no? E in effetti anche a me ha sorpreso, nel senso che un po' lo sapevo, però non avevo mai messo l'attenzione sul fatto, su questa storia che ci dice di una presenza di Maria, importante. Sono due miracoli, effettivamente, perlomeno così ho colto io, e io ne avevo presente uno che, entrando, quando si entra sulla sinistra, c'è quella Madonna che, quell'affresco, no? che versò lacrime, no? Davanti al popolo. Però ce n'è stato anche un altro più antico, nel 1400, che riguarda proprio un'antica immagine della Madonna che Sant'Ambrogio stesso fece mettere lì in quel sacello che conservava le reliquie di San Celso. E quindi ci sono tutta una serie di come dire, di significati che possono anche aiutarci molto nella preghiera, no? Qui noi siamo in una zona piena di riferimenti nella storia dei primi cristiani. C'è Sant'Eustorgio qui vicino con le reliquie dei magi, e con tutta la loro storia, il battistero, no? Quindi via della Santa Croce, dove venivano battizzati i primi cristiani, e più in là, Sant'Antonio del Paradiso, il luogo dove la tradizione dice che San Barnaba arrivò e piantò la croce. Ecco, però anche qui accanto, in fondo alla via Cosimo del Fante, questa chiesa che è in fondo il santuario mariano di Milano più significativo, per il fatto che ricorda due apparizioni di Maria che sono avvenute in un luogo santificato dal sangue dei martiri. Quindi Sant'Ambrogio trovò proprio lì, su quel terreno, sepolti i santi Nazaro e Celso, che peraltro si sono spesso nominati ovviamente nella storia cristiana di Milano, ma in effetti mi ha colpito rileggere la loro storia breve, no? San Nazaro sappiamo che fu uno dei grandi predicatori laici, numerosi all'inizio del cristianesimo, così dice, e che per questa sua missione diede testimonianza a Dio col martirio subito a Milano durante la persecuzione di Nerone. Di San Celso di sicuro si sa che aveva dai 18 ai 21 anni, per cui mi è venuto in mente questa giovane età, il fatto che anche in questa casa, insomma, c'è tanta affluenza, no, di universitari, no, di persone che hanno questa età, e sicuramente questo santo diciamo intercede per loro, no, per tutta la gioventù che lavora, che studia e che vive in questa città. E era a Milano per il servizio militare, no, quindi come tanti universitari che vengono da altre zone, no? E che a Milano subì il martirio per la fede durante la persecuzione di Nerone, quindi proprio siamo proprio agli inizi del cristianesimo, no? Nei primi decenni anni 60 d.C. Il suo accostamento a San Nazaro pare si debba soltanto a questi tre fatti: subirono il martirio nello stesso tempo, furono sepolti nello stesso luogo e assieme furono ritrovati lo stesso giorno da Sant'Ambrogio. Infatti, il santo, seguendo una pia tradizione o forse un'ispirazione, trovò i due martiri in questo luogo il 10 maggio dell'anno 396, l'anno prima della sua morte, quindi qualche giorno fa, e ricorreva l'anniversario di questo ritrovamento, no? Il 10 maggio scorso. Il corpo di San Nazaro lo fece trasportare in quella che fino allora si chiamava Basilica dei Santi Apostoli, in corso di Porta Romana. San Celso invece lo lasciò sul luogo in una piccola chiesa a lui dedicata, perché poi il suolo che aveva custodito i corpi dei martiri avesse un segno sacro, fece costruire una nicchia con l'immagine della Madonna, protetta da un'inferriata, simile ai molti tabernacoli con cui l'umile fede dei nostri padri ha adornato le nostre campagne e montagne. E quindi c'è sotto gli occhi questa immagine, questo affresco della Madonna che è il protagonista, se non ho capito male, del primo miracolo, quando la gente era in una successiva chiesa più grande, no? Costruita attorno a questa immagine, c'erano 300 persone che pregavano perché finisse la peste e, come allora era abituale, questa immagine che costituiva una sorta di pala d'altare era coperta da una tenda perché la si scopriva solo nei momenti di festa o di... E Maria, apparendo, e spostò la tenda e mostrò il bambino Gesù, e di fatto pochi giorni dopo terminò la peste, no? E ecco, poi l'altro miracolo più, come dire, forse più noto, nel senso che quando si entra appunto è subito lì nella chiesa sulla sinistra, quell'immagine della Madonna che pianse. E allora anche questo particolare, cioè, intanto mi ha fatto pensare che Maria, come dire, ha pianto sul luogo del martirio, no? Di questi due nostri fratelli nella fede. Quindi significa che il pianto di Maria è pianto appunto sul sangue di Cristo, come sempre, no? Che a volte è il sangue dei suoi figli cristiani versato in unione al servizio di Cristo. Quindi Maria piange vedendo appunto le sofferenze del figlio. Quindi Maria sta sotto la croce. Oggi siamo a metà del mese di maggio, quindi ci può far piacere fare l'orazione pensando ad un aspetto, no, della devozione mariana, che è la devozione per il dolore di Maria, no? Noi nella messa, quella della Beata Maria Vergine Addolorata, quella che si celebra il 15 settembre, preghiamo così: O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. E per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che Dio vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. In quella messa, che si può sempre dire come messa votiva sulla Maria Addolorata, noi leggiamo un salmo e dobbiamo pensare che, cioè ci aiuta forse a pensare che faccio un'altra parentesi, perché appunto questa, la presenza delle lacrime di Maria è molto, molto frequente, cioè ci sono molti santuari che ricordano apparizioni di questo tipo, la Maria che piange. Cioè, se uno va su Google ne trova, insomma, così subito anche solo in questa zona una decina. E a Treviglio, per esempio, anche a Pietralba, e poi anche nell'apparizione a Santa Caterina Liborè, ai pastori di La Salette, a Siracusa, e anche più recentemente, nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 1985, in Burundi, ma comunque questi sono solo alcuni accenni. E io ho scoperto, appunto, pensando a questa immagine della Madonna che ha pianto, che abbiamo qui vicino, e a cui è facile andare ad affidare intenzioni varie, ho scoperto che esiste, che l'hanno segnalata, perché ci sono tante devozioni alla Madonna, esiste anche una corona delle lacrime della Madonna, cioè una preghiera che è stata ispirata, no, a una suora brasiliana negli anni, ecco, l'8 novembre 1929, mentre pregava offrendo se stessa per salvare la vita di una sua parente gravemente ammalata. Questa è una suora brasiliana che si chiama Amalia di Gesù Flagellato, missionaria del Divino Crocifisso, e ha ascoltato una voce che le diceva: se vuoi ottenere questa grazia, domandala per le lacrime di mia madre. Tutto ciò che gli uomini mi domandano per quelle lacrime sono obbligato a concederlo. Allora la sua domanda con quale formula dovesse pregare, e ricevette questa indicazione, questa breve, brevissima preghiera: O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per amore delle lacrime della tua Santa Madre. No? E poi viene ripetuta 9 volte, un po' come altri schemi di preghiera che conosciamo. Dopo 9 volte, quando per sette, no? O Gesù, si dice quest'altra preghiera: O Gesù, ricordati delle lacrime di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e ora ti ama nel modo più ardente in cielo. Io penso che questa, appunto, anche questa devozione, che poi magari leggiamo anche la preghiera che si dice, fa riferimento a quel passo così breve dal punto di vista del Vangelo della Madonna sotto la croce. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Noi sappiamo di essere dentro alla vita, cioè simboleggiati, ma presenti davvero nella vita di questo discepolo amato, e che quindi abbiamo ricevuto da Gesù Maria come madre in quel momento. E quindi, come il discepolo amato l'ha tenuta accanto a sé, l'ha sostenuta e poi l'ha presa con sé, e quindi ha per primo, come dire, accolto le sue lacrime, è testimone di questo pianto di Maria sotto la croce, no? Contemplando il figlio crocifisso, e quindi tutti i dolori del figlio vengono, non solo quelli fisici, anche quelli morali, vengono accolti nel cuore di Maria, e c'è un continuo scambio di non solo di sguardi, ma anche di sostegno reciproco. E quindi dentro alla passione di Cristo che in qualche misura, no, come sappiamo, continua sempre. Noi anche a volte possiamo avere un'idea diciamo della vita eterna, del paradiso come assoluta assenza di sofferenza. E invece, recentemente si è riaffacciato anche, mi ricordo, fu Giovanni Paolo II, no, che nell'enciclica sullo Spirito Santo riprese il concetto misterioso della presenza di dolore in Dio, no? Cosa che era stata un po' respinta da tanti secoli per evitare alcuni così eresie, no, del passato, dei primi secoli, quell'eresia che pensava che sulla croce avesse patito il Padre, ma allora per creazione non si parlò più del dolore di Dio. Ma in Dio c'è il dolore, la Bibbia ne parla continuamente, no? E quindi è misterioso sapere questo, no? Perché però Gesù partecipa, e Gesù e Maria, no, partecipano a tutte le sofferenze del genere umano e continuamente offrono se stessi per noi, no? Offre Gesù se stesso al Padre, noi lo offriamo, anche se in modo incruento, sì, quindi senza spargimento di sangue, nella messa ogni giorno, e possiamo pensare che tutta quella linea della vita spirituale che porta appunto contemplare questo dolore, tutta la contemplazione della croce, no? L'adorazione della croce che facciamo il Venerdì Santo, anche il fatto di consolare il cuore di Cristo, no? Il fatto di consolare è qualcosa che ha sempre arricchito, no, la vita interiore dei cristiani. In effetti pensavo in questa la messa del 15 settembre, no? E noi da un lato ci mettiamo dentro ai sentimenti di Gesù col Salmo 30, il Salmo responsoriale: in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, no? Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. E sappiamo che i salmi sono la preghiera di Gesù, e che in Gesù hanno il loro compimento e la loro pienezza, no? Quindi pensiamo a questo salmo pensando a Gesù crocifisso: perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Il dolore di Gesù, no, che si sente sulla croce abbandonato dagli amici, tranne quelle donne e quel discepolo amato, e si sente appunto un po' condannato da tutti, no, dai capi della sua religione, il sommo sacerdote del Sinedrio, dall'autorità civile, Pilato e Erode, e anche dall'opinione pubblica, no? Crocifiggilo, crocifiggilo. In questo dolore Gesù si affida totalmente al Padre e ha in Maria un luogo di conforto. E in effetti nella meditazione, è come sempre in questi secoli di Chiesa, no? È successo, no, che il dato evangelico così essenziale come quello che abbiamo letto del Vangelo di Giovanni, poi nella vita spirituale, nella contemplazione dei cristiani viene continuamente arricchito. E vi ricordate che in quella messa del 15 settembre Noi leggiamo la sequenza facoltativa, no, dello Stabat Mater di Jacopo da Todi, e lì effettivamente questo riferimento alle lacrime di Maria è continuo, no? Addolorata in pianto, la madre sta presso la croce da cui pende il figlio, no? Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Immersa in angoscia mortale, geme nell'intimo del cuore trafitto da una spada, cuius animam gementem contristata met dolentem, per transivit gladius. Quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne, madre dell'unigenito, o quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti. E poi piange la madre pietosa contemplando le piaghe del divino suo figlio. Quemirebat et dolebat pia mater dum videbat nati pena sincliti. E così continua, no? E arriva, vi ricordate come Don Alvaro aveva devozione, era stato anche, era avvenuto in quel giorno, no? La sua elezione come successore di San José Maria, e aveva devozione per questa preghiera. Qual è l'uomo che non pianga, no? Quis est homo qui non fleret, matre in Christi, si videret in tanto supplizio, no? Vedendo la madre di Cristo in tanto tormento. E così via, no? Poi il riferimento è alle lacrime, no? O madre sorgente d'amore, fa che io viva il tuo martirio, fa che io pianga le tue lacrime, fac ut tecum lugeam, no? E poi fai che arda il mio cuore nella mano di Cristo Dio per essergli gradito, no? Facut arde ad cor meum in amando Christum Deum. Unisci al tuo dolore per il tuo divino figlio che per me ha voluto patire. Fa che io con te pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Restarti sempre vicino piangendo sotto la croce, questo desidero. O Vergine Santa tra le Vergini, non respingere la mia preghiera e accogli il mio pianto di figlio. E così via, no? Ecco, voi questo sapete che è facilmente ritrovabile, questa preghiera, insomma, oggi non è difficile, ma comunque nel Messale, il giorno della Madre Addolorata, della Madonna Addolorata, il 15 di settembre, no? E nel racconto di questa devozione, ecco, l'8 marzo del 30, questa suora stava inginocchiata davanti all'altare e vide la Madonna, no, che le diceva: ecco la corona delle mie lacrime, e poi la affidava a lei e a tutta la sua famiglia spirituale perché la pregasse proprio per ottenere la conversione di molti peccatori, avere tante grazie. In particolare, diceva, in modo particolare quelli dei seguaci dello spiritismo, quindi si vede che è una preghiera che in modo particolare vince il demonio, no? Il demonio, i demoni che sono molto presenti e fanno tanto danno continuamente, no? Nelle anime. E quindi, certo, stando sotto la croce, no, a contemplare le lacrime di Maria e di nuovo a guardare Gesù Cristo crocifisso, noi possiamo passare anche a quello che poi San Giovanni racconta dopo, no? Quel colpo di lancia, quando Gesù è già morto, che viene visto da Maria, dal discepolo amato, no? E dal costato di Gesù uscì sangue e acqua, no? E il simbolo dei sacramenti, ecco, anche segno della donazione totale di Gesù e della donazione totale del suo corpo e del suo sangue. Qualcosa è un passo della vita di Gesù, è un momento sublime, no? Che noi in qualche modo con la messa sempre ricordiamo, no? Quando viene consacrato il corpo e il sangue di Gesù sull'altare, no? E sappiamo che anche questa devozione alle piaghe di Gesù è una realtà molto bella e molto feconda, che anche nostro padre Santa Maria aveva molto viva, no? Fin da giovane, no? Pensate a quel punto di cammino all'inizio, no? Pensate, è nel capitolo direzione, che fa riferimento, penso, alla direzione spirituale. Dice così: non disturbare l'opera del Paraclito, unisciti a Cristo per purificarti e senti con lui gli insulti, gli sputi e gli schiaffi e le spine e il peso della croce e i ferri che dilaniano la tua carne e l'angoscia di una morte nell'abbandono. E mettiti nel costato aperto di Gesù nostro Signore fino a trovare il rifugio sicuro nel suo cuore piagato. E indubbiamente questa devozione, questo suggerimento spirituale è suggerito dallo Spirito Santo, no? A tanti santi, e noi possiamo tenerlo presente nei momenti della sofferenza, della pena che possiamo soffrire per il fatto cioè di seguire Cristo e di servirlo, no? Con tutta la nostra vita. Mettiti nelle piaghe di Cristo crocifisso, no? E offrirai continuamente al Padre i dolori del Signore, quelli di Maria, per pagare tutti i tuoi debiti e tutti i debiti degli uomini. E così anche in questi punti di meditazione, di cammino, sorgo e forgia, sono alcuni riferimenti. Poi c'è il Santo Rosario, si immagina nostro Padre di avvicinarsi al corpo morto di Gesù e di baciare appunto le sue piaghe, no? La piaga del costato, questa piaga del costato che è presente nel Nuovo Testamento proprio in questo tempo pasquale, no? Questa che ha un potere spirituale immenso, perché aiuta Tommaso a recuperare la fede, eh? E Gesù stesso dice: metti la tua mano qua e non essere incredulo, ma credente. E con questa ultima, ecco, c'è un ultimo punto che volevo leggervi, vediamo se. Lo ritrovo. Comunque, sono tanti punti, no, queste. Non importa, c'era un altro punto sulla piaga, sulle piaghe di Gesù, che adesso non ho ritrovato, non importa. Accogliamo questo suggerimento, no? di contemplare le piaghe di Gesù. Anche questo è un mistero grande, no? Questo in Cristo risorto rimangono, appunto c'è qualcosa che rimane, non è, anche se è passato, insomma, è passata la morte, no? È passato il dolore di quella croce, però Gesù ha voluto che mantenere le piaghe come segno, penso io, appunto di riconoscimento, sono proprio io. E poi evidentemente sono un segno per noi, no? Perché noi non ci scoraggiamo, no? Di fronte alle difficoltà. Possiamo concludere con questa preghiera che termina la devozione alle lacrime di Maria. O Dio, tu che hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore, concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventino occasione di grazia e strumento di salvezza per Cristo nostro Signore.